Linee d'ombra di Matteo Caccia. E mi sono un po' vista anche con gli occhi di Luca, che in me vedeva appunto una persona adulta che era lì a insegnargli delle cose e che poteva essere anche un punto di riferimento. Mi sono trovata ad essere il punto di riferimento di un ragazzino adolescente che stava cercando di modellare la propria vita senza farsi scoraggiare dagli insuccessi. Storie di debiti estivi e della scuola di Barbiana in una puntata che si intitola Cara professoressa. La prima cosa che devo dire a proposito di questo libro è che è un libro veramente bello. C'è una definizione di Berenson che dice qual è il metodo pratico esistenziale per giudicare la bellezza di un libro ed è l'aumento di vitalità che dà. Leggendo questo libro la vitalità aumenta in modo vertiginoso, perché è un libro scritto con grande grazia, con grande precisione, con assoluta funzionalità e oltretutto c'è anche la coscienza, direi, stilistica di questo libro, perché in questo libro viene contenuta una delle più straordinarie definizioni di quello che deve essere la poesia, cioè un odio, un senso di vendetta verso gli altri che una volta approfondito e liberato diventa amore. Perché oltretutto è un libro che riguarda sì la scuola come argomento specifico, ma nella realtà riguarda la società italiana, la qualità di vita italiana. Lui è Pierpaolo Pasolini, che racconta l'esperienza incredibile della scuola di Barbiana. Noi in questi giorni, in quest'epoca, lo stiamo vedendo, lo stiamo osservando. Se siamo dei docenti o se siamo degli allievi, lo stiamo anche sperimentando su di noi. Però di fatto lo stiamo osservando come attraverso il computer, attraverso il web e attraverso le app di chat collettiva, noi stiamo sperimentando un nuovo modo di fare educazione e di fare formazione. Chi lo sa cosa rimarrà quando tutto questo finirà, se avremo capito delle cose, se ne avremo imparate delle altre. Questo vale in realtà per quasi tutti gli ambiti professionali e della vita nostra. Però oggi noi vi raccontiamo delle storie che hanno a che fare proprio con la formazione e con l'educazione. Nei due racconti che vi proponiamo, davvero cerchiamo di capire quanti modi ci sono per stare vicino a qualcuno, che è lì, che ci guarda e ci dice: insegnami qualcosa, fammi capire qualcosa che io non so, raccontami qualcosa di nuovo sul mondo. Nella storia di Chiara lo capiremo bene come fa una giovane donna a stare vicino a un ragazzino di 15 anni che fa fatica anche solo a stare fermo al tavolo, come gli si può insegnare qualcosa, anche solo provare a capire come si pensa oggi. E poi vi racconteremo invece, ed è per questo che abbiamo aperto in questo modo, l'incredibile esperienza della scuola di Barbiana di Don Lorenzo Milani. La scuola di Barbiana è stata una fase di rottura assoluta nel sistema educativo italiano, perché di fatto nel 1954 questo giovane prete, che ha credo degli screzi con la curia fiorentina e quindi viene spostato dalla diocesi di Firenze, viene mandato in questo paesino che si chiama Barbiana, in collina, è una frazione di Vicchio, che è un paese un po' più grande, sempre in provincia di Firenze. E lì lui comincia questa sperimentazione che durerà poco più di 10 anni, in cui lui guarderà la vita di questi bambini, che non sono figli di medici, non sono figli di insegnanti, quindi non hanno la giornata vuota, sono figli di lavoratori e quindi sono figli di pastori, sono figli di falegnami, sono figli di agricoltori, e tutto il giorno questi bambini, per quanto bambini, per quanto giovanissimi, sono costretti a lavorare per forza di cose. Appena finita la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia a macchia di leopardo, qua e là si sta industrializzando, ma ci sono ancora delle aree rurali molto molto forti e molto molto radicate. E Don Milani osserva questi bambini e dice: c'è per forza un altro modo per insegnargli qualcosa, c'è per forza un modo per stare vicino a questi bambini e insegnargli la vita, oltre che la grammatica, la matematica e la letteratura. E verrà pubblicato, tra le varie pubblicazioni, un libro che si chiama Cara professoressa, da cui vi racconteremo alcune di queste lettere. Perdonatemi, lettere a una professoressa, non cara professoressa, quelle caro diario o chissà cos'altro. Lettere a una professoressa è un libro che contiene le lettere che questi ragazzini mandano in assoluta polemica la scuola dell'obbligo dell'epoca, mandano a questa professoressa ipotetica con la quale non hanno studiato, perché fortunatamente per loro è arrivato Don Milani. Vi racconteremo questa e altre storie in una puntata che si intitola Cara professoressa. Benvenuti a Linea d'Ombra. Ho conosciuto Luca un pomeriggio d'estate. Lui era un ragazzino sui 15 anni, con i pantaloncini da calcio e l'aria da ribelle, vagamente strafottente, un po' in contrasto con il suo sguardo serio. Mi è stato subito simpatico. Era venuto da me per delle ripetizioni di chimica, per recuperare il debito preso alla fine della prima superiore. A contattarmi era stato il padre qualche pomeriggio prima e io avevo accettato subito, anche se in realtà tempo non ne avevo. Era l'estate del 2016 e io stavo scrivendo la tesi, lavoravo 8 ore al giorno all'ospedale per completare il tirocinio obbligatorio per la laurea in farmacia. Dare ripetizioni mi è sempre piaciuto e, bisogna dire, ho sempre avuto una forte propensione a riempirmi all'inverosimile le giornate. Negli anni dell'università avevo già dato ripetizioni di chimica a diversi ragazzi, tutti universitari e tutti di poco più piccoli di me. La mia esperienza con i ragazzi più giovani era abbastanza limitata, ma si prospettava interessante e, speravo, meno impegnativa. Così, qualche giorno più tardi, mi sono trovata davanti a questo ragazzino magro, il ciuffo biondo davanti agli occhi e uno zainetto sulle spalle. Durante il nostro primo incontro, Luca mi ha raccontato che lui, in realtà, aveva già deciso di cambiare scuola. Di debiti ne aveva presi 3, ma uno sapeva già di non poterlo recuperare perché non aveva trovato nessuno che lo aiutasse. Sarebbe stato bocciato. Mi ha raccontato che gli insegnanti della scuola media gli avevano sconsigliato la scuola tecnica a cui si è iscritto, suggerendogli di optare per una scuola più facile, ma che lui aveva voluto lo stesso provare. Io ci sono rimasta male perché in lui vedevo l'orgoglio ferito di chi ha provato a dimostrare di essere più dell'etichetta che gli è stata affibbiata e non ci è riuscito. Lui però mi ha sorriso e mi ha detto che andava bene così, aveva solo capito che le materie della scuola tecnica non gli piacevano. A settembre sarebbe passato a ragioneria e avrebbe dimostrato allora il suo valore. Lui è arrivato con questa sacca tracolla, con i pantaloncini da calcio e i calzettoni, come se dovesse andare all'allenamento, non a fare ripetizione di chimica. E secondo me aveva un po' l'espressione strafottente, lui era un po' come dire che era grande, no? Però mi è sembrato subito timido e secondo me non si aspettava che fossi così giovane. E niente, abbiamo iniziato a guardare un po' il programma, lui si era portato il libro, un po' di appunti, non ne aveva tanti in realtà perché non riusciva a seguire le lezioni, quindi mi ha detto ma noi abbiamo fatto questo, dovrei recuperare un po' queste cose, praticamente non so niente. Sono rimasta basita. Questo ragazzino biondo davanti a me stava per passare l'estate a studiare una materia che forse non avrebbe mai più rivisto, per recuperare un debito che comunque non gli avrebbe permesso di evitare la bocciatura. Lui aveva percepito il mio stupore e, dritto di orgoglio, mi aveva detto che l'idea era stata sua. Voleva far vedere ai suoi genitori che avevano fatto bene a dargli fiducia e voleva dimostrare agli insegnanti che si sbagliavano. Lui non era stupido. Abbiamo iniziato così il ripasso intensivo del programma di chimica del primo anno dell'Istituto Tecnico Industriale. Primo argomento, la tavola periodica. Non aveva capito le prime lezioni e così non era riuscito a decifrare nessuno degli argomenti successivi del programma. Non mi sono persa d'animo e gli ho insegnato il linguaggio della chimica e per lui è come se si fosse aperto un mondo. Lo vedevo che si appassionava e questo mi riempiva di gioia. Gli argomenti per me erano di base e quindi le ore mi passavano in fretta, senza sforzo. Luca invece sui libri esauriva le energie, ma ci teneva a fare bella figura e ci metteva tutto l'impegno di cui era capace. Io ero orgoglioso di lui. Pensavo, se continua così, ce la potrà fare. Anche il rapporto con me era completamente diverso da quello a cui ero abituata con gli universitari. Per Luca non ero una quasi coetanea brava in una materia ostica, ma una giovane donna a metà strada tra un insegnante e una sorella, sospesa in un'età indefinita, lontana dalla sua, ma non abbastanza da rientrare nella fascia d'età dei genitori. Mi dava del lei e mi ascoltava con attenzione. Era molto educato e, con me almeno, era veramente timido, come pensavo. Try, but you can't deny chemistry. Chemistry. Luca ha passato tutti quei pomeriggi con me a cercare di superare i suoi limiti, stupendo suo padre e soprattutto se stesso. Durante quei pomeriggi, un po' alla volta, ho inquadrato il problema legato a quei 3 debiti, alla bocciatura già decisa e al professore di chimica che durante l'anno si era talmente stufato delle domande di questo ragazzo da dirgli che forse era meglio che cambiasse scuola. Ho capito che Luca a questo debito non avrebbe mai passato, che lo meritasse o no. Così ho allentato un po' la presa sulla materia in sé e ho cominciato a parlargli dello studio in generale. Qualche frase tra un esercizio e l'altro, basata sulla mia esperienza o sulle poche cose che sapevo di lui. Volevo incoraggiarlo nel suo proposito e insieme aiutarlo a capire che il suo essere lì, in quel momento, con me, diceva molto di più su di lui rispetto a quanto qualsiasi risultato che ne avrebbe ottenuto. Volevo incoraggiarlo nel suo proposito e insieme aiutarlo a capire che il suo essere lì, in quel momento, con me, diceva molto di più su di lui rispetto a qualsiasi risultato che ne avrebbe ottenuto. Volevo che capisse che il suo obiettivo, la stima dei suoi genitori e degli insegnanti, lo stava raggiungendo con il suo impegno e pazienza, se qualcuno non l'avrebbe capito. Lui, davanti ai miei discorsi, era rimasto colpito, come se fossi la prima persona che gli diceva queste cose. Mi ha ringraziato, ha sorriso timido e mi ha detto che ci teneva a fare bella figura con me perché sentiva che gli stavo dando fiducia. E io di nuovo lì a stupirmi della tenacia e della schiettezza disarmante di questo ragazzino. E niente, lui ha detto: ma non so se mi piace o non mi piace la chimica, però io ci tenevo tanto a far vedere che comunque ci ho messo tutto il mio impegno e non sono stupido, mi ha detto. E gli ho detto, ma come stupido, no? Anche perché in realtà ragionava anche molto bene, secondo me. Poi, un pomeriggio, dopo 3 o 4 esercizi sul bilanciamento delle reazioni redox, Luca ha appoggiato la penna, ha incrociato le mani e guardandomi mi ha detto, posso raccontarti, invece? Io ho alzato gli occhi dal libro, gli ho sorriso, gli ho detto, ma certo, non hai voglia di fare esercizi oggi, eh? E il resto dell'ora l'abbiamo passata così, con la penna appoggiata al quaderno e lui che mi raccontava della scuola, dei suoi amici, della sua famiglia e delle sue speranze per il futuro. Mi ha chiesto che cosa ne pensavo delle domande che si faceva. Voleva sapere com'è diventare grandi, come si fa a scegliere una strada. Io lo ascoltavo e un po' mi sentivo in colpa perché avrei dovuto insegnargli la chimica in quell'ora, ma poi ci avevo pensato su e mi ero detta che in quell'ora io ero lì per lui. E forse la cosa di cui aveva più bisogno era proprio di essere ascoltato. Nelle volte successive è andata spesso così, un po' di chimica e un po' di chiacchiere. Lui aveva preso confidenza, ma non aveva perso la sua gentilezza. Quando parlava gli brillavano gli occhi, quando si chinava sui libri si impegnava al massimo delle sue possibilità. Così, nell'estate in cui la mia vita ha preso la sua direzione e io stessa mi chiedevo come si fa a diventare grandi, come si fa a scegliere una strada, mi sono trovata ad essere il punto di riferimento di un ragazzino appena adolescente dall'aria birichina che stava cercando di modellare la propria vita senza farsi scoraggiare dagli insuccessi. Ripensandoci all'idea di Luca, ero anche io così, affamata di adulti significativi che avessero fiducia in me e che mi stessero ad ascoltare, senza paura di mettersi in gioco, da quel mondo indefinito che sta tra gli amici e i genitori. Io avevo trovato i miei punti di riferimento nell'Azione Cattolica. Luca in una ragazza di 24 anni che gli dava ripetizioni di chimica per un paio d'ore a settimana, nell'estate prima della laurea. A ripensarci mi viene ancora da sorridere. Ho salutato Luca alla fine di agosto e gli ho augurato ogni bene. Gli ho detto, Luca, il tuo obiettivo è già raggiunto. Lui ha spostato dagli occhi il ciuffo biondo, si è girato verso di me e dal cancello mi ha detto, grazie infinite per tutto. Non ha passato il debito, ma mi ha scritto che non gli è importato. I suoi erano orgogliosi di lui. Lui era orgoglioso di se stesso ed era pronto a cominciare la nuova scuola. Quando vado a scuola, mamma mia che fatica, che brutta la salita. Oggi ho un disegno, che bello andare a scuola. Forse mia cara maestra non ha capito, amore mio, infinito. il sole e la bambina. Cammino sopra un mare di frutta frullata, e non sprofondo mai. Un vento di sciroppo e nuvole di spinaci, lui vuole i miei baci. L'amore quando mangi la brioche è scaldata la bambina, ma ora è fredda ma la mangi uguale. Forse mia cara maestra non ha capito. E la storia di Chiara è una storia molto bella, che racconta non solo di come si possa trasmettere informazione e trasmettere cultura, ma di come attraverso un briciolo di ascolto delle altre persone, che abbiano 16 anni o che ce ne abbiano 40, si può delle volte capire un pochettino di più rispetto a quello che magari già noi pensiamo o abbiamo immaginato di quella persona. E ovviamente, come sempre, Chiara è al telefono con noi. Pronto? Ciao Chiara, buongiorno. Ciao, buongiorno. Come stai? Tutto bene. Senti, tu dove abiti, Chiara, esattamente? Allora, adesso io abito a Castelfranco Veneto da un paio d'anni. Com'è la situazione emergenza lì? Siamo a 12 giorni in zona arancione. Siamo un po' tutti a casa, insomma, sono anche fortunata con un pezzettino di giardino, però sì, insomma, un periodo un po' strano. Senti Chiara, invece andiamo a quell'estate, era l'estate di 3 anni fa. Del 2016. 2016, quindi 4 anni fa ormai. Esatto. Di lui abbiamo più avuto notizie, di Luca? No, in realtà no. Io, come avevo scritto anche nella storia, in quell'anno stavo finendo la tesi, mi stavo laureando. Mm-hmm. Luca aveva l'esame più o meno in concomitanza alla fine con la mia laurea. Noi ci siamo sentiti dopo che aveva fatto l'esame, quando appunto mi ha detto che non l'aveva passato, ma che era comunque contento. Poi io mi sono laureata, ho cambiato vita perché ho iniziato a lavorare, non sono più riuscita a dare ripetizioni, lui comunque aveva cambiato scuola, quindi non ne aveva più bisogno, e no, non l'ho più sentito. Tu hai un'anima da mentore o da insegnante dentro di te? Oppure è stata la prima volta e l'hai scoperto, l'hai frequentata? Quando ero all'università, dopo qualche ora di ripetizione ai ragazzi dell'università, avevo iniziato più anche per consolidare un po' le conoscenze. E in realtà è una cosa che non avrei mai pensato, ma mi ha appassionato fin da subito. Poi con i ragazzi delle superiori è davvero un altro mondo. Luca è stato il primo per un periodo continuativo, e anche il primo con il quale si è creato anche un rapporto che va al di là dell'insegnamento. Forse mi sono anche un po' scoperta, ecco. E infatti, guarda, l'altra domanda che volevo farti era questa, cioè che persona sei diventata dopo quell'esperienza? O meglio, ti ha lasciato qualcosa, ti ha reso una persona leggermente diversa? Beh, diciamo che anche per il lavoro che poi ho iniziato a fare, io faccio un lavoro di supporto alle altre funzioni aziendali, quindi spesso mi capita o di tenere qualche corso, di aiutare le persone nello svolgimento del loro lavoro, e secondo me questa cosa in me è nata anche nell'esperienza con Luca e con gli altri ragazzi, perché ho proprio visto una mia capacità, una cosa nella quale non avrei mai creduto, ma che mi riusciva davvero bene, anche proprio l'ascolto. E quindi io credo che sia stata un'esperienza che mi ha in un certo modo anche cambiato la vita, in un momento in cui io comunque stavo cercando di dare una direzione anche a livello lavorativo e personale. Senti, adesso diciamo tecnicamente non capiremo mai che cosa fai esattamente, ma tecnicamente cosa fai in azienda? Allora, io lavoro nell'assicurazione qualità, ambiente farmaceutico, quindi okay. Aderenza alle normative delle procedure aziendali. Sembra molto burocratico, lo so, in realtà è molto bello perché fa appunto da supporto a tutte le funzioni dell'azienda, agisce un po' da coordinamento. Certo, certo. Si sente è un lavoro molto interessante. Si sente un po' di vento nel tuo telefono e devo dire che per la prima volta è quasi consolante, nel senso che sapere che ci sono persone che possono avere un fuori casa, in questo momento tu stai appunto chiamando dal giardino, è davvero quasi un sospiro di sollievo rispetto alle persone che invece sono costrette magari in appartamenti piccoli, e quindi ci prendiamo tutto il vento della tua telefonata come se ci arrivasse un pochettino in faccia. Chiara, ti ringrazio moltissimo. Sì, diciamo che anche il mio appartamento è molto molto piccolo, okay, quindi sfrutti il fuori giardino. Chiara, ti ringraziamo per la storia, per la chiacchierata, e come sempre insomma stai su col morale come tutti e in bocca al lupo per tutto. Certo, grazie mille. Ora sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a Linea d'Ombra. Linea d'Ombra. Lettera a una professoressa è un libro epocale per la pedagogia italiana. Quando uscì nel 67 fu una polemica aperta alla scuola dell'obbligo dell'epoca, che l'esperienza della scuola di Barbiana aveva modificato. Cioè Don Milani, arrivando in questo paesino e vedendo come vivevano questi bambini, che di fatto erano dei bambini lavoratori a tutti gli effetti, decise di modificare il metodo pedagogico e scrisse questo libro. Questo libro è ancora oggi ascritto a Don Milani, in realtà fu redatto collettivamente dagli scolari più grandi di Barbiana, fu fatto sotto la supervisione di Don Milani, ma lo scrissero a tutti gli effetti loro. Sono delle lettere che loro scrivono ai loro vecchi insegnanti, a quelli che non li avevano capiti, a quelli che non avevano capito che avevano bisogno di un modo diverso per imparare le cose della scuola. È per questo che l'abbiamo messo insieme alla storia di Chiara, e quindi la seconda storia di oggi arriva proprio da lì, sono proprio le lettere contenute in Cara professoressa. Cara signora, lei di me non ricorderà nemmeno il nome. Io invece ho ripensato spesso a lei e ai suoi colleghi, a quell'istituzione che chiamate scuola, ai ragazzi che respingete. Ci respingete nei campi e nelle fabbriche e ci dimenticate. 2 anni fa, in prima magistrale, lei mi intimidiva. Del resto la timidezza ha accompagnato tutta la mia vita. Da ragazzo non alzavo nemmeno gli occhi da terra. Strisciavo contro le pareti per non essere visto. Sul principio pensavo che fosse una malattia mia o al massimo della mia famiglia. La mamma è di quelle che si intimidiscono davanti a un telegramma, pensi lei. Il babbo osserva e ascolta, ma non parla. Più tardi ho creduto che la timidezza fosse un male di noi montanari. I contadini del piano mi parevano sicuri di sé. Gli operai poi non se ne parla. Ora ho visto che gli operai lasciano ai figli di papà tutti i posti di responsabilità dei partiti e tutti i seggi in Parlamento, dunque sono come noi. E la timidezza dei poveri è un mistero più antico. Non lo so spiegare io che ci sono dentro, forse non è né viltà né eroismo, è solo mancanza di prepotenza. La scuola ha un problema solo, sono i ragazzi che perde. La vostra scuola dell'obbligo ne perde per strada 462.000 all'anno. A questo punto gli unici incompetenti di scuola siete voi, che li perdete e non tornate a cercarli. Bocciare è come sparare in un cespuglio. Forse era un ragazzo, forse era una lepre, si vedrà con comodo. Fino all'ottobre seguente non vi preoccupate di cosa avete fatto. Sarà andata a lavorare? Ripete? E se ripete, lo farà bene o lo farà male? Si farà le basi per seguitare meglio oppure invecchierà malamente sui programmi non adatti per lui? A ottobre, in seconda, lei trova ancora 32 ragazzi, vede 26 visi noti e le pare di essere di nuovo tra i suoi ragazzi, a quelli a cui vuole bene. Poi vede 6 ragazzi nuovi. 5 di loro sono ripetenti, uno ha già ripetuto 2 classi e ha quasi 9 anni. Il 6° ragazzo nuovo è Pierino, del dottore. I cromosomi del dottore sono potenti. Pierino sapeva già scrivere a 5 anni. Non ha avuto bisogno di fare la prima, figuriamoci. Entra in seconda a 6 anni e parla come un libro stampato. Già segnato anche lui, ma questa volta con il marchio della razza pregiata. Alla fine delle elementari, 11 ragazzi hanno già lasciato la scuola per colpa delle maestre. Per la scuola è aperta a tutti, tutti i cittadini hanno il diritto di 8 anni di scuola, tutti i cittadini sono uguali, ma quegli 11 no, sono diversi. La tentazione del lavoro pesa sui poveri, in età diverse a seconda se sono contadini oppure operai. Gli 11 ragazzi che sono andati a lavorare nei 5 anni delle elementari avevano dai 7 ai 14 anni. La maggioranza erano contadini o comunque gente che vive in case isolate, dove c'è sempre qualche faccenda da fare, anche da dare da fare a un bambino piccolo. Lo Stato si è scordato di loro. Non li scrive più nel registro scolastico e non li scrive ancora in quello della forza lavoro. Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali, ma quando entrava in classe il direttore tu ci facevi alzare tutti in piedi. E quando entrava in classe il bidello, ci permettevi di restar seduti. Mio buon curato, dicevi che la chiesa è la casa dei poveri, della povera gente. Però hai rivestito la tua chiesa di tende d'oro e marmi colorati. Come può adesso un povero che entra sentirsi come fosse a casa sua? Egregio sindaco, mi hanno detto che un giorno tu gridavi alla gente, vincere o morire. Ora vorrei sapere come mai vinto non hai, eppure non sei morto, e al posto tuo è morta tanta gente che non voleva né vincere né morire. Se si sfoglia un sussidiario, è tutto piante, animali, stagioni, sembra che possa scriverlo soltanto un contadino. E invece gli autori escono dalla vostra scuola. Basta guardare le figure: contadini mancini, vanghe tonde, zappe a uncinetto, fabbri con gli arnesi dei romani, ciliegi con le foglie del susino. Anche sugli uomini sapete meno di noi. Lei che conosce Cicerone, di quanti vivi conosce tutta la famiglia veramente da vicino? Di quanti è entrata in cucina? A quanti ha fatto nottata? Di quanti ha portato in spalla i morti? Su quanti può far conto in caso di bisogno? A lei rombano sotto le finestre 1000 motori al giorno. Non sa chi sono né dove vanno. Io so leggere i suoni di questa valle per chilometri intorno. Questo motore lontano è Nevio, che va alla stazione con un po' di ritardo. Vuole che le dica tutto sul centinaia di creature, decine di famiglie, parentele, legami. Lei, se parla con un operaio, sbaglia tutto: le parole, il tono, gli scherzi. Io so cosa pensa un montanaro quando sta zitto e so la cosa che pensa mentre ne dice un'altra. Questa è la cultura che avrebbero voluto avere i poeti che lei ama. Sia umile, almeno. La sua cultura ha lacune grandi come le nostre. forse più grandi, certo più dannose per un maestro elementare. Ora, noi siamo qui ad aspettare una risposta. Ci sarà bene in qualche istituto magistrale qualcuno che ci scriverà: cari ragazzi, non tutti i professori sono come quella signora. Non siate razzisti anche voi. Anche se non sono d'accordo su tutto quello che dite, so che la nostra scuola non va. Solo una scuola perfetta può permettersi di rifiutare la gente nuova e le culture diverse. La scuola perfetta non esiste, non lo è né la nostra né la vostra. Comunque, quelli di voi che vogliono essere maestri, vengano per gli esami qua giù in pianura. Ho un gruppo di colleghi pronti a chiudere gli occhi. Di italiano vi chiederemo di raccontarci come avete fatto a scrivere questa bella lettera. Di latino, qualche parola antica che dice il vostro nonno. Di geografia, la vita dei contadini inglesi. Di storia, invece, i motivi per cui i montanari scendono qui, in pianura. Di scienze, ci parlerete dei sormenti e il nome dell'albero che fa le ciliegie. Ecco. Aspettiamo questa lettera. Abbiamo fiducia che arriverà. Il nostro indirizzo è Scuola di Barbiana, Vicchio, Mugello, Firenze. Questa splendida lettera che abbiamo appena letto fa proprio parte di quella collezione di lettere della scuola di Barbiana, lettera a una professoressa, lettere che questi ragazzi che sono cresciuti grazie a Don Milani hanno mandato in maniera anche direi apertamente polemica a quegli insegnanti che negli anni non li hanno visti, non li hanno considerati, soprattutto non li hanno capiti. Ora ci ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui i diari della quarantena. Linee d'ombra. Stiamo raccogliendo qui a Linee d'Ombra ormai da un paio di settimane i diari di questa quarantena, i diari di questa nuova vita, e siamo sicuri e speriamo tutti quanti breve vita. È chiaramente cambiata per tutti, è cambiata se continuiamo a lavorare, è cambiata se continuiamo a lavorare da casa, ed è cambiata ancora di più se invece non stiamo lavorando e siamo a casa, magari da soli, e quella condizione è una condizione comunque complessa, magari con figli ed è complessa per altri motivi, magari di coppia. Credo che i più fortunati siano le coppie fresche, quelle che vivono da poco tempo insieme, e quindi è come se fosse una lunga domenica, anche se di fatto la convivenza, sappiamo, può essere complessa. Ma cosa succede quando invece appunto vivi da solo o da sola e hai voglia o avevi preso un appuntamento con qualcuno prima che questa emergenza scoppiasse? Magari è un ragazzo, magari è una ragazza, e che cosa fai? Ovviamente non puoi andare, non puoi uscire, non puoi nemmeno invitarlo o invitarla a cena, perché le regole ti dicono stiamo a casa separati fino a quando tutto non passa. E allora facciamo come ha fatto Marta, che ci racconta nel suo diario che ha fatto una cena su Skype, uno di qua e l'altro di là. 11 marzo 2020, emergenza coronavirus. Siamo tutti barricati in casa da giorni a fare la famosa quarantena. Per noi single questo ritiro forzato è anche un po' un'esperienza mistica. Ci si alza da soli e si va a letto da soli. Nel mezzo però è tutta una conference call di lavoro, post condivisi sui social e classi di Pilates in streaming. La quarantena in solitudine sta diventando talmente tanto social che non ho tempo di fare le cose che mi ero prefissata di fare: leggere i libri che avevo selezionato, guardare i film della lista scritta una vita fa. L'altra sera ho dovuto dire ai miei amici: no ragazzi, stasera io non ci sono per la cyber cena, ho un impegno, casomai vi raggiungo per l'amaro. Potevo finalmente farmi un po' i fatti miei. E invece no, perché l'impegno ce l'avevo davvero. Sono le 8:20, rimango con l'outfit da yoga, ma metto un filo di trucco. Il rossetto, non troppo, se no si capisce che non sono così al naturale. Ore 8:30, in punto, clicco su partecipa. Ciao! Eccolo, il mio invito a cena al tempo del coronavirus, in video call. Lui a casa sua, io a casa mia. Il menù prevede risotto, ognuno come più gli piace. L'importante è sincronizzarsi sui tempi. Lui finisce prima e quindi la mantecatura la fa andare un po' per le lunghe, tant'è che il riso diventa una pappa. Il prezzo da pagare per essere un gentiluomo, e comunque può sempre mentire sul gusto, no? Il mio invece è ottimo. Da bere un rosso, anzi due, Montepulciano io, Primitivo lui. Si parla di film, musica e aneddoti legati agli oggetti in casa. Dai, ci facciamo un altro bicchiere? Ma sì, tanto domani si lavora da casa. È l'una, è il momento dell'amaro. Prende due tazzine dimenticandosi che sono dall'altra parte dello schermo. All'1:30 ci salutiamo, entrambi brilli, ma non abbastanza da far scattare il bacio, almeno in questa occasione. Da un po' di tempo, e quanta fame hai, e che Io ringrazio molto Marta che ci ha mandato questo piccolo diario di questa quarantena. Se avete voglia di farlo, continuate a farlo anche voi. linee d'ombra@radio24.it è l'indirizzo per mandarci il racconto, una pagina, mezza pagina di come sono le vostre giornate. E ora continuiamo, andiamo verso la fine di questa prima puntata settimanale che stiamo facendo ognuno dalla propria casa, come è giusto che sia, e continuiamo a raccontare la storia di Anna Maria. Anna Maria ci sta raccontando passo passo che cosa è successo nella sua testa, cosa è successo quando era una ragazzina e quando di fatto era come se non fosse vista dalla sua famiglia, e questa cosa l'aveva fatto scattare un tarlo, era: devo essere la migliore di tutti. E questa cosa a un certo punto si è messa di mezzo con il cibo. Il cibo è diventato una sorta di metodo per cercare di essere la persona migliore possibile, e ha a che fare con la gola. Questa storia ha a che fare ovviamente con l'anoressia. E succede improvvisamente. Non ricordo neanche la causa scatenante, cioè che cosa è stato che mi ha dato il là. Perché qualcosa di scatenante deve esserci nel momento in cui fai un pochino dell'analisi di te, no? Tra virgolette, cioè ti comprendi un pochino, no? Ti avvicini, ti guardi allo specchio, dici: caspita, quasi 40 anni, ma insomma, beh, non riporto neanche male. L'evento scatenante di questo bilancio è la ristrutturazione della casa in cui vivevamo. Avevo quasi 37 anni quando ci siamo trasferiti a tempo indeterminato da mia suocera per lasciare agli operai la nostra casa libera per i lavori. Avevamo ipotizzato di tornare dopo un paio di mesi, ma ce ne vollero più di tre. Nel senso che andavamo a dormire da mia suocera, a mangiare da mia suocera, e poi, che abitava vicinissimo a noi, e poi io tornavo la sera a recuperare i capi di abbigliamento di tutti gli armadi svuotati e delle cose che erano stati tutti raggruppati in garage, e su era il disastro più assoluto. Ovviamente devi buttare giù un muro, rifare un bagno, rifare la pavimentazione, cioè tu immaginati il delirio, teli, controteli, cose, gente. Improvvisamente la sensazione: sto perdendo il bandolo della matassa, no? Quando non hai il controllo della situazione. Quando parlavo con l'idraulico o con il capo cantiere mi sembrava tutto chiaro, tutto definito e tutto controllabile da me, ma i ritardi erano all'ordine del giorno. Bastava un dettaglio che non si incastrasse alla perfezione che tutta la ristrutturazione slittava di giorni e giorni. Dopo più di tre mesi di lavori, la casa era pronta dai pavimenti al tetto, era proprio come la volevamo, come ci piaceva, con i muri chiari, molto spazio e molte librerie. Io ho continuato per giorni con gli amici che venivano, anche i miei genitori: ma che bello, ma guarda che bel lavoro che avete fatto, ma è splendido. Era la frase che sentivo ricorrente, era: non è niente rispetto a prima, cioè, come dire, no, non lo riconosco. E lì c'è stato questo paragone, questo confronto tra quelle macerie e io che non mi riconoscevo allo specchio. Tutti riconoscevano i cambiamenti della mia casa, e più sentivo le conferme di questo, più si rafforzava in me la convinzione che io invece fossi rimasta sempre uguale. Ma non ci sono voluti giorni. È stato un click. In tutta la mia vita, cioè fino a quando non avevo deciso che bisognava essere perfetta, quindi praticamente con il tentativo di suicidio, fino a quel momento lì c'erano stati un sacco di click che io avevo ricliccato immediatamente. Cioè, ho detto, li avevo sistemati, nel senso, ok, ti sistemo, ok, ti sistemo, ok, ti sistemo. Avevo sistemato anche quello, pensavo solamente che costruirmi gli anni 50 attorno sarebbe stata la mia valvola di salvezza, perché nessuno ti faceva domande. Come stai? Bene? Ma tu stai sempre bene. Basta, era la risposta che io volevo, no? Nessuno ti faceva domande. Tuo marito? Perfetto. I bambini? Oh, guarda che belli. La casa? Madre, mi dice sempre tua mamma. Quindi, tutto perfetto. Poi succede quell'altro click e quindi mi ero resa conto che questi 20 anni, più di 20 anni, avevano delle basi che non esistevano. Chiudiamo qui, chiudiamo così questa puntata di Linee d'Ombra. Io ringrazio tutte le persone che anche in questo momento difficile si fanno in quattro per riuscire a mandarci in onda tutta la radio, tutta Radio 24. Mauro Pescio che scrive dal suo ritiro in Umbria. Ringrazio Paolo Corleoni che oltre alle dirette a casa si monta il programma. Anita Panizza ovviamente che tra la casa, i bambini e le poche ore in radio riesce ad assemblare le puntate come solo lei è in grado di fare. E poi Luca Micheli che continua a scegliere i brani musicali e le basi per raccontare il meglio possibile le vostre storie. Voi continuate a mandarci le vostre storie, scegliete se mandarci delle storie che vi facciano evadere, quindi storie del vostro passato che abbiano una linea d'ombra nel mezzo e quindi un passaggio di confine, oppure invece per alleggerire la vostra quarantena magari raccontarci qualcosa delle vostre giornate. Torniamo domani, state su, rimanete su e raccontate storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!